con... Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, mi senti? Sì. Ok, vai, raccontaci un po' questa esperienza di in dettare di uno sciopero delle donne contro le violenze. Ascolta. Sai un po' se è stato ben seguito? Pronto? Pronto? Sì, mi senti? Sì, ora sì, dimmi. Vai, vai, puoi parlare un po' delle cose che sai, okay, come sono state. Sì, sì. Sì, vai. Sì, sì, sì. Allora, rispetto allo sciopero delle donne, premetto che non sono in grado di fare una valutazione, un bilancio globale ancora, con l'occhio del poi, perché non conosco ancora bene diciamo quello che effettivamente è stato, al di là dei numeri, le iniziative messe in campo, perché molte adesioni, molte prese di posizione e partecipazione addirittura sono arrivate ieri sera, quindi non saprei, però posso fare una valutazione diciamo decisamente positiva per le forze, la forza che hanno messo in campo le singole donne, studentesse, lavoratrici, delegate e quant'altro, per far sì che questo sciopero si concretizzasse nelle proprie realtà di lavoro, nella propria città e quant'altro. C'è stata un'energia enorme che si è messa in gioco e si è liberata, e che col silenzio mediatico hanno completamente messo a tacere. Però non importa, perché no, comunque sapevamo già che questo che sarebbe stato uno sciopero a macchia di leopardo, una scintilla. Io posso raccontare la mia esperienza all'Aquila, dove non si è mosso assolutamente nulla per il 25 novembre, neanche il centro antiviolenza, che io sappia, ha fatto nulla. La mia esperienza poi è stata essenzialmente sul mio posto di lavoro, dove è stato indetto lo sciopero delle donne, ma con le altre lavoratrici, insomma, ne abbiamo parlato per... molte di loro, anzi la maggior, praticamente tutte, nessuna di loro diciamo è iscritta a un sindacato, non si sono mai fatte lotte, non si sono mai fatti scioperi, si respira un clima veramente pesante proprio di controllo e di fascismo, sembra di stare in una caserma. E comunque, nonostante ciò, e per questo, insomma, alla fine con le altre colleghe abbiamo fatto uno sciopero simbolico, perché abbiamo lavorato quel giorno, però ci siamo fatte notare, abbiamo messo striscioni, cartelli rossi con ognuna scritto quel che sentiva dentro il negozio. Abbiamo distribuito volantini, abbiamo ripetuto 3 volte nel corso della giornata un annuncio al microfono sullo sciopero delle donne, e è servito molto, penso, sia a me che alle altre mie colleghe, che erano alla prima esperienza, no? Non avevano nessun... non sono femministe o militanti o compagne, sono lavoratrici, donne doppiamente sfruttate, che lavorano il doppio e vengono pagate di meno. Poi i punti della piattaforma nella quale ci si sono ritrovate tutte. Quindi questo, diciamo, nel piccolo di questa realtà è stato molto positivo. E direi che se ognuna, se non ci fosse stata appunto questa cappa di silenzio anche da parte degli altri sindacati di base, che non hanno indetto lo sciopero, e da parte di molte donne, devo dire la verità, che non hanno detto né a né bla e magari sono andate a rimorchio delle iniziative istituzionali. Se ognuna avesse dato qualcosa sarebbe stata un'esplosione. Magari però, avete messo la scintilla e l'esplosione verrà l'anno prossimo. Sì, noi sicuramente lavoreremo in tal senso, perché io ripeto, rispetto al tempo e le energie che avevo ho potuto fare veramente poco. Anche l'attacchinaggio in città è stato molto limitato da parte mia, però d'altronde sono sola e non ho il tempo. Ripeto, sì, questo non era, lo sciopero del 25 novembre non era, non è che l'inizio, non era l'obiettivo, la tappa finale, non è che l'inizio. Noi lavoriamo per uno sciopero totale, generale e nazionale vero delle donne, uno sciopero sì. Vero. Sì, sì. Perché sarebbe stato molto diverso se noi avessimo fatto veramente astensione dal lavoro, sarebbe stato completamente diverso. Ma però è un inizio, da per quello, noi è stato importante questo. Da quello che sai, ci sono stati altri scioperi di donne in Italia? No. Questa è la prima volta. È la prima volta nella storia d'Italia. Uno sciopero delle donne, uno sciopero totale delle donne e generale delle donne. Okay. E poi vabbè, altre so che a Palermo la mobilitazione ha visto la partecipazione di molte studentesse agguerrite. Di lavoratrici del policlinico, della scuola, delle cooperative sociali, hanno fatto praticamente, c'è stato un corteo da Piazza Politeana fino al comune e poi alla prefettura. E poi ripeto, ho letto ieri sera che per un momento gli avevano imposto praticamente di evitare alcune zone, avevano limitato praticamente l'accesso avevano praticamente vietato alcuni tratti del percorso e loro comunque sono andate con forza e hanno rotto i blocchi e le hanno fatte passare. Adesso spero di saperne di più. Sì, sulle cose nei prossimi giorni. Sì, ok. Faremo un bilancio comunque. Sì, il bilancio comunque secondo me, anche senza vedere i numeri, anche senza vedere come sono andate le altre iniziative, è sicuramente positivo sì. Perché molte donne si sono, ripeto, in tutta Italia si sono messe in gioco, hanno dato il massimo. Okay. Al di là di chi le rappresenta, sì, ma comunque lo sciopero deve venire dalla base, lo sciopero deve venire dalla base, se no comunque non ha molto senso. Ok, guarda Luigia, il tempo per noi finisce. Ti ringrazio molto perché non era facile. No, va benissimo, grazie mille. Prego, ti ringrazio a te. Ciao. Ciao. Ciao.